Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera, sono Marco Catania, sono qui a Ciao Como Radio, sto presentando una canzone che è una canzone dei Ministri, questo gruppo chiamiamolo underground milanese, che ha avuto un discreto successo, a cui sono molto legato per i connotati e i contenuti che contengono i loro LP, ecco. Vi manderei una canzone cattiva ma con un messaggio in fondo buono, storico, importante, che è Base a Vicenza. E poi vi lascerò con alcune mie parole scritte nel mio profilo Facebook. Ecco, vi lascio con la canzone. Ecco, adesso vi leggerò alcuni pezzi tratti dai miei aforismi che sono pubblicati su Facebook e che spero di pubblicare anche su manuale, su un libercolo che vorrei dare alle stampe, ma naturalmente servono i finanziamenti, quindi sto ancora aspettando. e qualcuno di voi fosse interessato a darmi una mano, mi contatti attraverso Gastone o Gastone Terraneo Allineamenti. Ecco, questo è il primo. Ogni sofferenza si soffermerà, e poi essa sfiorirà. E quando tutto questo confronto si muterà in conforto, io confinerò con l'infinito. Mi preme di sopprimere l'inarrestabile, mi preme di arrestare l'insopprimibile. Un intervento divino mi salverebbe da Dio, sì, se io invenissi con la stessa ventura. A morte d'amore, amore di morte, libera un giudizio giusto e liba una Babele biblica sull'emblema del blasone nel vessillo degli stendardi, tantalici e tanatici di una bandiera banderuola, la casseruola. La leggenda è una cosa pazzesca, la pazzia è una cosa leggendaria. Amo il male, penso sia nella mia natura, naturalmente malvagio, maleficamente naturale. Il tuono incenerirà il lampo, il turbine assorderà dai boati. Il terrore è temibile, chi trema senza tema freme un brivido, sbroglia un fremito. Odio il rispetto, rispetto l'odio, io bergamotto da Cirene. E la potenza del mattino ad ammattire i potenti seppi risaputamente, sapientemente risapere. Chiesi luce, ottenni fuoco, annegherò tutti gli angeli nel deserto e le serpi gelide respireranno la loro agonia angelica. Liuto, diruto, leticante l'estasi statuaria degli stolidi serafini, albigeri cerbiatti che barattarono l'aere con le rese, le arse sere con le serate ardenti, ci hanno insegnato a morire per la libertà invece di impararci a vivere per la liberazione. Un primato primario è oggi il primeggiare, ciò imprime impressioni opprimenti, tanto da opprimere imprinti impressionanti, l'antagonismo è ancora la nuova agonia. A soldai del denaro e dannai soli e chi era isolato e colui in cui nulla era risoluto, vederlo ammattire mi infervorava, le ricchezze sono accattivanti perché cattive, quindi chi è cattivo è ricco perché è accattivante. Gli uomini buoni non sono ricchi, gli uomini buoni sono ricercati e semplici, hanno ricchezze ma riconoscono nel valore ingerente la cosa veramente importante, nel presente, nella presenza, la vera moneta risonante, che mena sonante, che risuona amena. Mi preme di sopprimere l'inarrestabile, di arrestare l'insopprimibile. Il timore costerna chi trema, i tremiti intimoriscono chi è costernato, le costernazioni astratte traggono dall'agonia la loro gioia, che lede le delusioni, che delude le lesioni. Il fattore creativo è catarsi figurativa, è figura catartica, è configurazione artistica, è arte configurata. Raggranellato il gremo, raggruma i granelli, il germe del grano è la grana dei germi. Che sia passabile una donna impassibile non è impossibile. La logica cosmica è un universo di legami, è un legame di universi, è un cosmo di logica. Vi è un'epoca in cui l'ego non ha età, evolvendosi la tattica spacca l'atto attuato timidamente, demandabile, sussistente. L'immortalità non è eterna se l'eternità non è immortale. Frittura di braccia, barricate nelle barbe dei sultani solitari. Arranca la ragione, ragiona il rancido, estrema e tremula, intronata, tifata, fatidica e deficiente per i cedri drenati e per le rane decentrate. La pacchia spaccherà il pacco del pacco che appacchierà la spaccatura. Bene, con questo vi saluto, saluto Allineamenti e tutti i fan di questo gruppo che mi ha aiutato moltissimo ad emergere. Ciao. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.